Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno e benvenuti anche oggi. Deborah, siamo in diretta fino alle 12, pronte? Ma anche se è festa, la nostra scuola di risparmio rimane aperta. Ma sì, guarda, però oggi l'ho voluta fare un pochino più, passami il termine, leggera, senza far mancare il contenuto, perché già lo facciamo in tante puntate, andiamo a caccia di curiosità finanziarie. Oggi praticamente per tutti i 45 minuti disponibili per la scuola di risparmio racconteremo tante curiosità finanziarie legate agli italiani come risparmiatori, come sono cambiati negli ultimi 70 anni, chissà, e ce lo faremo raccontare da chi per 70 anni ha osservato in lungo e in largo il nostro paese da tanti punti di vista, ma non dico ancora niente. Allora, intanto possiamo dire che il nostro numero verde è attivo, sì. 800 24 00 24. Ci sarà anche il quizzettone, comunque attenzione, perché l'interrogazione non manca, che nel giorno di festa vale doppio, cioè quindi quattro libri. Allora, ieri abbiamo festeggiato, hanno festeggiato i melomani, tra l'altro ieri per la Madama Butterfly diretta da Chalier è stato un trionfo, 13 minuti di applausi. Bellissime. Tu l'hai vista? La rivincita, sì, l'ho vista per... No, ho visto il secondo atto perché sono arrivata tardi, e però una grande soddisfazione, bella. Insomma, la rivincita di Puccini dopo il famoso 112 anni. Dopo il famoso Cilecca. Oggi invece festeggiano gli appassionati di sci, Deborah. Noi siamo qua, gli sci li abbiamo, poi noi non siamo delle grandi appassionate. Ma per niente affatto, noi siamo due marinarette. Abbiamo però nel cuore le ciaspole, che potrebbero andare per noi. Nel cuore, perché nei piedi non ce l'abbiamo mai messe. Comunque, oggi, l'8 di dicembre, è per tradizione il giorno del debutto della stagione sciistica. Quindi, se state andando a sciare, se siete già quasi sulle piste, localizzatevi, chiamateci, scriveteci, mandateci una vostra foto in tuta da sci, oppure il panorama di una pista innevata, oppure quello di un cucuzzolo. Dal cucuzzolo della montagna, con la neve alta così, nella valle noi scenderemo. Raccontateci anche se siete appassionati di fondo di sci da discesa, se siete del partito come noi delle ciaspole. Nel frattempo saluto il dottor Simone Diamantini, preparatore atletico. Buongiorno Simone, bentornato e grazie. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Eccoci. Allora, pronti, si parte. Come ogni inizio, Simone, è bene fare qualche raccomandazione. Un po' di vacanza, lo sappiamo, fa sempre bene, soprattutto se diventa anche un'occasione per fare un po' di moto e respirare un po' d'aria fresca. I livelli di inquinamento stanno salendo, quindi rigeneriamoci un po', però Simone, come tu ripeti spesso, gli sci ai piedi devono essere governati da testa e gambe forti, e non solo, e lo vedremo. Quindi iniziamo, partiamo prima di tutto dalla testa, perché in montagna bisogna essere attrezzati, l'attrezzatura è anche, fa parte della sicurezza, quindi parola d'ordine per prima cosa, sicurezza. Simone, partiamo. Assolutamente sì. Beh, innanzitutto spesso si vede come attività sportiva lo sci da discesa, che lo è, ma di fatto è anche comunque un grande divertimento, lo sci, lo snowboard e qualsiasi altra attività, ma lo si fa in un ambiente comunque a temperatura molto, molto bassa, e comunque in una fase, se parliamo di sci da discesa e snowboard, dove comunque è la pendenza che determina poi il divertimento, ma anche il pericolo. Certo. La prima cosa per la testa è ovviamente il casco. Il casco. Questo è inevitabile, è un uso oramai quasi consueto, soprattutto per i giovani. Spesso gli adulti si dimenticano che anche loro hanno una testa, e allora riparano solo quella dei bambini o dei figli, ma invece direi che è utile farlo mettere a tutti, ecco, questo sicuramente. Un'altra cosa importante è che a volte si fa poco, soprattutto quando è brutto tempo, l'utilizzo di occhiali adeguati, perché comunque il riverbero anche col brutto tempo crea poi problemi agli occhi. E una cosa invece in realtà che non si fa, e lo facciamo anche in città con la nostra macchina, non facciamo assolutamente nessun tipo di riscaldamento, accendiamo la macchina e partiamo, ed è la stessa cosa che avviene in montagna quando iniziamo a sciare. No, arriviamo sui campi da sci e ci buttiamo giù subito, come se tra l'ultima sciata della scorsa stagione e questa non fosse passata neanche un giorno. E questo sicuramente non aiuta le nostre articolazioni e non aiuta neanche le nostre gambe, e quindi diciamo che la testa lì viene un po' meno. Quindi Simone, che cosa fare prima di affrontare anelli e piste, considerato che è un anno che abbiamo sulle spalle e la nostra muscolatura non è pronta? Siamo un po' arrugginiti, non preparati, non pronti. Allora, Usa più la prescistica, o sbaglio? Io mi ricordo i corsi di prescistica non ci sono più, sono proprio solo nei paesi o nelle grandi città. In realtà si fa attività fisica, però non è funzionale a quel tipo di obiettivo. In realtà sono passati di moda. Io mi ricordo che quando facevo al liceo, l'università a Torino, c'erano tutti questi corsi di prescistica e ci si iscriveva e si arrivava pronti sulle piste. Avevo un'amica che veniva invece a scuola con me, che mi raccontava che prima di partire per la settimana bianca con la famiglia studiava il pomeriggio a casa con gli scarponi già messi ai piedi, perché preparava, cioè che io avevo davanti a me questa immagine, per me incomprensibile, però insomma questa era la sua anche personalissima prescistica. Non lo so, mi pare di no, ma gli scarponi li indossava una settimana prima in casa. Senti Simone, cosa facciamo prima di mettere gli sci ai piedi? Beh, innanzitutto sicuramente nell'immediato, cioè se siamo già in zona discesa, sicuramente un minimo di riscaldamento, vuol dire muovere le gambe, fare delle piccole piegamenti sulle gambe, delle piccoli slanci anche con gli scarponi ai piedi e le racchette piantate per terra, in modo tale da avere una base d'appoggio, degli slanci progressivi, quindi prima molto blandi e poi leggermente più impegnativi, e ovviamente affrontare le prime discese con grande tranquillità, non a 200 all'ora, per evitare proprio che comunque la muscolatura non risponda, e poi se non risponde diventa difficile andarla insomma a richiamare, perché si rischia di farsi male. La cosa importante è poi anche il dopo aver fatto la prima sciata, perché poi la prima sciata, magari la prima giornata viene molto bene, ma se facciamo un periodo, come è capitato in questo ponte, la possibilità di fare 3-4 giorni, noi dobbiamo cercare di fare quello che in inglese viene chiamato cool down, cioè un po' di defaticamento, e quindi andare a farci una passeggiata, fare degli esercizi di allungamento moderati, magari se siamo in un hotel o in un hotel bello con la spa, fare dell'idromassaggio. Vedi, un po' meno, questa prescistica qua mi piace molto. Questa dopo sciistica ci piace. Allora, adesso ci fermiamo, anche noi facciamo un po' di allenamento. Sì. Nel frattempo andiamo a sentire subito che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Voi intanto localizzatevi e diteci se siete state per affrontare anelli o piste o ciaspole, quale preferite, e raccoglieremo altri consigli da Simone Diamantini e ci siederemo anche a tavola, perché ci piace anche andare in montagna per mettere le gambe sotto il tavolo in una bella baita con una bella polenta fumante. Vediamo, a tra poco. Cuore e denari. E siamo tornati insieme, oggi vi accompagniamo in montagna perché la stagione dello sci è partita. Secondo un sondaggio online condotto dal sito Coldiretti, sono circa 4 milioni, Deborah, gli italiani in vacanza con almeno una notte fuori casa, non specifica se nella spa con l'idromassaggio, per questo ponte dell'Immacolata, ma più del doppio coglieranno l'occasione della festa per fare almeno una scampagnata, una gita fuori porta in giornata. Tra le mete preferite naturalmente c'è la montagna, e proprio sulle piste da sci siamo con Simone Diamantini, preparatore atletico. Simone, prima di la polenta concia è un classico in baita. Tutti si fermano. Assolutamente. Possiamo rinunciarci? Quanti chilometri di sciata bisogna fare prima di potersene concedere un piatto? O anelli di fondo, che così. Sì, è più facile bruciarla con gli anelli di fondo che con le ciaspole, che con la discesa e lo sci alpino e lo snowboard. Questo sicuramente. Bravo. Perché comunque il dispendio è ecco, volete mangiare superiore. La polenta, andate di ciaspole. Possiamo mandare questo messaggio, sì, o anelli di fondo? Okay. Assolutamente. Invece, a parte tutto, abbiamo detto che insomma sciare è impegnativo per i muscoli, per le articolazioni, per questo tu hai suggerito di fare una sorta di preparazione, stretching prima ma anche dopo, ma ci vuole anche il giusto carburante per affrontare questo impegno, soprattutto per chi passa da una vita molto sedentaria alla scrivania allo sforzo, all'impegno che richiede una pista. Quindi una ottima colazione per iniziare e poi evitare l'alcol per riscaldarsi. Questo so che sono le raccomandazioni basic, ma che cosa vuoi aggiungere? Sì, assolutamente. Quello magari di evitare di fare, soprattutto se decidiamo di fare una sciata dall'inizio della giornata alla fine, quello di fare un pranzo molto impegnativo, ma magari di fare delle merende in modo tale da mantenere anche un livello glicemico, ma anche un livello energetico a buona intensità, a buon livello, e quindi evitare poi un grosso carico nella pausa pranzo per poi avere una grossa difficoltà, certo, nella fase successiva, quindi nella fase di riposo, ecco, ma anche per avere dei piccoli pasti in modo tale da far riposare le gambe, ma non troppo, ecco. Grazie a Simone Diamantini. Quando inaugurerai la stagione? Quando... Io penso che la inaugurerò poco prima di Natale. Dai, allora prima non riesco. Risentiti anche tu la puntata. Va bene. Sentita Juvad. Grazie. Sento la sfida, taglio la cipolla, che per me è un momento molto particolare. E dai, dai campioni amatoriali sugli sci passiamo ai campioni, quelli veri, professionisti, quelli che avete sentito, Francesco Totti, il capitanissimo. Bello, Va bene, comunque alle prese con il taglio alla cipolla. La sfida è tagliarla senza piangere, una sfida che sta diventando virale sul web. Molti personaggi dello sport, ma anche dello spettacolo, Alessandro Cattelan, Coccoluto, per citarne alcune, si sfidano proprio nel taglio della cipolla. Perché? Una sfida che ha l'obiettivo di sostenere una campagna di cui vogliamo parlare, la campagna della Fondazione Operation Smile Italia Onlus, proprio per sensibilizzare le persone sulle malformazioni al volto. Parliamo di labioschisi, più comunemente nota come labbro leporino, o altre formazioni che coinvolgono anche il palato o il palato e anche le labbra. È una malformazione che si riscontra soprattutto nei paesi più poveri, ma è presente anche in Italia, e questa campagna, che si chiama Smiling Onion, utilizza proprio la cipolla, quindi questo ortaggio che è molto comune, presente in tutte le cucine, che generalmente si associa al pianto, perché la cipolla, quando taglio, ti fa piangere, per regalare un sorriso. E quindi una campagna che, come anticipavamo, ricordiamo volentieri, e che ci dà anche lo spunto per parlare della virtù della cipolla, che è una delle più antiche specie orticole coltivata ormai in tutte le parti del mondo. Ce ne sono di diverse varietà: la bianca di maggio, l'agostana di Chioggia, c'è addirittura la musona, ecco, la borettana emiliana, la cipolla rossa di Tropea, così rossa, questa, che si aggiunge nelle insalate. Ma c'è anche però lo scalogno, che è un po' il cugino della cipolla, diventato famoso con Cracco. Se vuoi fare il figo, usa lo scalogno. Esatto, sì, per i risotti e quant'altro. E noi di cipolla vogliamo parlare perché è preziosa in cucina, ma anche delle virtù terapeutiche, con il nostro Luca Voledo. Buongiorno. Buongiorno ragazze, come state? Va benissimo. Lei ha qualche trucco per non piangere affettando la cipolla? Sì, almeno due. Allora, il primo... Il primo è molto facile, basta aprire l'acqua del rubinetto e affettare la cipolla lì vicino, perché le sostanze responsabili della lacrimazione sono molto volatili e si liberano al taglio della cipolla, e l'acqua in qualche modo è la sostanza molto idrosolubile, e l'acqua corrente risparmia il fazzoletto, sì. E l'altro? Un altro è mettere le cipolle in freezer per una mezz'ora, e in questo modo rallenta l'azione di questo enzima che si libera nel momento in cui la cipolla si affetta ed è responsabile della formazione di queste sostanze lacrimogene. Quindi possiamo suggerirlo a tutti i personaggi e a tutti i VIP che si cimenteranno nel taglio alla cipolla per la campagna. Certo. Dopo la campagna, quando la campagna sarà finita, perché così adesso lacrima un po', dopo potremo utilizzare questi consigli. Oppure non la mascherina da sci. Mettiamo, anche, abbiamo certo parlato, se l'abbiamo tirata fuori per andare a sciare, teniamola lì vicino al cassetto della cucina. È la cipolla è presente in cucina per soffritti, si usa nelle insalate, gli cuochi si sbizzarriscono, ogni cuoco ha la sua ricetta. Ricordiamo la cipolla caramellata di Oldani, ma non è l'unico. Ma la cipolla è preziosa anche per le sue virtù terapeutiche, dottora Voledo. Verissimo, Nicoletta, tanto è versatile da un punto di vista gastronomico, tanto è benefica da un punto di vista salutistico. Mi azzarderei a dire che una cipolla al giorno toglie il medico di torno. A parte che ha delle sostanze che sono presenti proprio nelle mele, le stesse benefiche come la quercetina, che è un flavonoide antiossidante, cioè sia nelle mele, appunto, del proverbio, che nelle cipolle. Ma la cipolla ha tantissime virtù che vanno dalle sue proprietà antibiotiche, antinfiammatorie, quindi parlavate di C, utile anche per contrastare i dolori. Ovviamente stiamo parlando di un alimento, quindi sì, non c'è da aspettarsi degli effetti come i farmaci, però per esempio stanno studiando come alcune molecole, in particolare composti solforati presenti nelle cipolle, siano utili anche nella prevenzione di alcune forme tumorali come il cancro al colon, allo stomaco, alla prostata, quindi evidenze scientifiche molto importanti di un alimento da introdurre con generosità nell'alimentazione. Parlavate di glicemia quando parlavate di C, la cipolla aiuta anche per la presenza di cromo, oltre che dei composti solforati, a mantenere dei livelli glicemici più stabili, ad abbassare il colesterolo, a regolarizzare la pressione, insomma. Ma meglio cotta o cruda? Allora, la cottura prolungata fa perdere la vedi che domandona. No, è giustissima. Quindi bene anche le cotture, cruda va benissimo, le cotture magari quelle un pochino più delicate, una rosolatura per esempio non tanto prolungata. Cipolle anche bianche al vapore con le teniamo un po' croccanti, un filo d'olio e via. E via. Perfetto, perfetto. Dottora Voledo, perché le do questa ricettina? Perché ho visto che lei dà delle ricette anche sul suo sito. Andate a vederlo, mettiamo il link. Dottora Voledo, alla prossima, un grazie, abbraccio, buona grazie, cipolla. E buon 8 dicembre. Bene. GR e andiamo. A dopo. Il segnale orario vi è offerto da Wafer-Lago. Wafer-Lago, dolci emozioni italiane. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Aceto Balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Cuore e denari. Eccoci qua, siamo tornati insieme in questo giovedì di festa. Attenzione, l'abbiamo anticipato, la nostra scuola di risparmio non chiude neppure il giorno dell'Immacolata, quindi no, anzi, preparatevi. L'Immacolata interroga oggi, attenzione. Non mancherà il nostro domandone, seguiteci, rimanete in contatto con noi, anche dalla montagna. Allora, un'ascoltatrice tra l'altro ci ha scritto, ma come, andando in montagna come pensate che possiamo ascoltarvi? Partiranno con mica tutti oggi, eh? Sì, ma tanto in montagna uno arriva, magari arriva in macchina, non a piede, magari ci ascolta e poi insomma restiamo in contatto. Ci comunque rivolgiamo a tutti quelli che partono domani e che oggi ancora stanno lì a preparare. Bravo, insomma, e pacchetti. Magari siete a casa. E a proposito di luoghi, arriva direttamente da Vienna il nostro prossimo ospite, che alla conferenza mondiale sul cancro al polmone, dinanzi a una platea, Deborah, di 6.000 specialisti internazionali, ha ricevuto un riconoscimento molto importante. Vuoi leggerlo tu con un inglese perfetto? Joseph Cullen Aweron. È una bella parola. Adesso gliela facciamo dire, esatto, a lui, infatti, che gli è stato assegnato per i risultati nella ricerca sulla prevenzione del tumore al polmone. E quindi diamo il benvenuto a Ugo Pastorino, direttore della struttura complessa di chirurgia toracica all'Istituto dei Tumori di Milano. Buongiorno. Speriamo complimenti. Speriamo la prenda con un sorriso la nostra pronuncia improbabile di un riconoscimento invece. Allora ce lo dice lei. Fantastico. Con una pronuncia perfetta. Difficile da pronunciare. Vero? Ecco, meno male. Joseph Cullen Award. Award già è una parola un po' complicata. E quindi è un premio. Award. È un premio un po' alla carriera, un po' ai risultati. Ah, ma ricerca. È award allora. Sì, noi l'abbiamo. Sì. Ah, ecco, perché. Per questo perché ce l'hanno scritto. E c'era questo esatto. Comunque, complimenti. Siamo felici per questo riconoscimento che le è stato conferito per i risultati nella ricerca sulla prevenzione del tumore al polmone. Tra l'altro il presidente proprio dell'Associazione Internazionale per lo Studio del Tumore ai Polmoni, nel conferirle il premio, lo ha definito, dottor Pastorino, un pioniere negli studi sulla chemioprevenzione nei tumori causati dal fumo di sigaretta. Quindi 30 anni di ricerca, di impegno, una vita, diremo, spesa a trovare proprio una soluzione, una strada, direi, per vincere questo killer. E per fortuna si iniziano a raccogliere i primi risultati. Sul fronte delle terapie ci sono dei passi avanti importanti, a partire dall'immunoterapia, che è stata anche la grande protagonista del Congresso Mondiale di Vienna. È così, dottor Pastorino? È così, e devo dire che anche su questo fronte l'Istituto Tumori di Milano ha avuto 3 presentazioni orali molto importanti di studi prospettici controllati che dimostrano l'efficacia di queste nuove terapie e soprattutto che aiutano a scegliere chi le può fare e chi non le deve fare. Perché come per tante altre terapie farmacologiche del cancro, i risultati sono molto diversi a seconda di come si selezionano i soggetti, le persone da trattare. Siccome queste terapie costano anche moltissimo, sì, noi siamo anche molto motivati a proporle solo alle persone che sappiamo avranno un beneficio. Però la vera rivoluzione, al di là dei farmaci che sono tanti e saranno sempre di più, è che noi per la prima volta abbiamo farmaci che agiscono sull'ospite, cioè sulla persona, e sono in grado di potenziare le difese immunitarie. Quindi non è più un trattamento mirato esclusivamente al cancro che distrugge purtroppo anche una parte di cellule sane. È un trattamento che è mirato alle nostre sistemi di difesa immunitaria che sono bloccati dal tumore, perché queste nuove scoperte dimostrano che i tumori sono in grado di bloccare la nostra immunità. Ora, questi nuovi farmaci sono una nuova strategia perché tolgono questo freno e permettono al nostro organismo di difendersi. Fantastico. Quindi terapia, passi avanti, però ci sono anche dei progressi, dottor Pastorino, nella messa a punto del test del sangue per la diagnosi precoce del cancro polmonare. In grado sì, di... noi abbiamo, grazie all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, che ci ha sostenuto tantissimo in ormai 15 anni su questo progetto, abbiamo messo a punto il primo grande studio prospettico a livello internazionale su 4.000 persone, che ha come obiettivo quello di dimostrare se un test all'inizio è in grado di farci capire non solo chi si ammalerà, ma chi ha più vantaggi dalla diagnosi precoce, e soprattutto evitare di fare un eccesso di esami radiologici a chi ha un basso rischio biologico. Cioè, la vera scommessa oggi è risolvere quel problema che un po' tutti hanno nella testa: ma come mai mio nonno non si è ammalato, che ha fumato tutta la vita, mia zia, perché soltanto metà dei forti fumatori muoiono prima per causa del tumore? Qual è l'altra metà? Noi vogliamo rispondere a tutte queste domande e dire che tutti gli sforzi, compresi gli sforzi di diagnosi precoce, che sono enormi, perché se voi pensate che negli Stati Uniti oggi, secondo i criteri attuali, bisognerebbe fare uno screening a 30 milioni di persone, vi rendete immediatamente conto che è impossibile. Anche per gli Stati Uniti. In Italia si tratta di comunque di qualcosa come 1-2 milioni di persone. È uno sforzo enorme. Noi dobbiamo semplificare tutto il sistema. Cerchiamo un test che sia un po' come, tra virgolette, il PSA, non c'entra niente, però insomma, comunque, no, ma rende l'idea, esatto, che ci faccia da primo step, prima di cominciare a fare tutto il resto. Ora, noi avremo le risposte per questo in 2 anni. Abbiamo chiesto all'AIRC di poter prolungare la sperimentazione fino al 2018, però questo è stato, diciamo, abbiamo ottenuto questo sostegno che ci aiuta tantissimo per chiarire bene le cose, perché la fretta purtroppo in medicina non paga. Bisogna lasciare il tempo per osservare veramente i risultati a medio termine dei nostri interventi. Però non staremo senza fare niente, ve lo prometto. Infatti, no, questo lo sappiamo bene. Questo lo sappiamo. Quindi useremo questi 2 anni che vengono, cioè 2017-2018, per lanciare un grosso studio di prevenzione in cui mettiamo insieme la diagnosi precoce e la prevenzione. Anche questo sarà uno studio primo al mondo, in cui andiamo a definire però i soggetti sulla base di un rischio biologico. Cioè prenderemo solo quelli che hanno delle condizioni a parità di fumo, hanno delle condizioni biologiche misurabili nel sangue che dimostrano un rischio molto elevato, 2-3 volte superiore a quello dei forti fumatori senza questo rischio. Quindi partiremo con uno studio che fra l'altro combinerà anche la dieta antinfiammatoria e l'esercizio fisico per la prima volta in un programma controllato di uno studio randomizzato. Quindi grande, questo impegno ci riscalda il cuore. E a proposito di cuore, c'è una parola che vogliamo commentare con lei, che fa comunque sempre la differenza: prevenzione. E lei più volte ha denunciato il calo di interesse e attenzione nei confronti del fumo, e a farne le spese, lo sappiamo, sono i giovanissimi che, a dispetto delle campagne, dei divieti, iniziano a fumare, continuano. I nostri figli, ricordiamo, i nostri ragazzi sono i più tabagisti d'Europa e non sanno esattamente che cosa rischiano. E insieme ai ragazzi ci mettiamo anche le donne. Allora, purtroppo su questo ci sono colpe di tutti. Anche i media hanno ripreso, cosa che era, c'era stato un bando per 20 anni, c'è stato un bando sui media, niente gente che fuma, niente persone di successo che fumano. Adesso vediamo che cominciano di nuovo le interviste. Sì, io ho avuto successo, sono un grande scrittore, sono un grande politico perché ho fumato tanto. Ecco, queste cose sono veramente, veramente nocive, sono veleno allo stato puro. Quindi io credo che, così come c'è il bando delle sigarette nei locali pubblici, che è una cosa fantastica, ci deve essere il bando alla pubblicità indiretta da testimonial. Però il vero problema nei confronti dei giovani è che noi non sappiamo comunicare, non raggiungiamo il loro mondo. E non è soltanto una questione di avere degli strumenti di comunicazione che sono obsoleti, la televisione, assolutamente obsoleti per quella fascia, ma è perché noi parliamo di cose che non hanno alcun interesse. Allora, a differenza dell'alcol, i cui effetti si vedono subito, se uno prende una sbornia rischia di morire la sera stessa, e questo lo sanno tutti, d'accordo? Gli effetti del fumo si vedono dopo 30-35 anni. Ora, a un giovane di 15-20 anni, cosa può interessare soprattutto il suo futuro? Tutti a 15 anni ci siamo sentiti invincibili e immortali. Ma sì, ma non gli interessa proprio, non si vede. Cioè, allora noi dobbiamo cambiare il modo di comunicare, non è sulla malattia, è che noi bisogna rovesciare un concetto che ormai purtroppo è tornato prevalente, che uno per essere capace, dinamico, aggressivo, vincente deve fumare. Se non fuma è un cretino. E questo è quello che sentono i giovani, si sentono obbligati a entrare in questo circuito perché sennò si sentono dei poveri falliti già a 15 anni. È una cosa pazzesca. Non è un caso che ha preso questo riconoscimento. È bravo, Pastorino. Adesso sì. Viene a trovarci una volta? Esatto. Quando voi volete, però voi dovete aiutarmi a fare una campagna per i giovani in cui si smonta questo stupido luogo comune. Per avere successo bisogna fumare. Ci mettiamo alla faccia. Grazie, complimenti, dottor Pastorino. Complimenti. Grazie a voi. Grazie. E non vuoi ricordare le stelle di Natale? Lo ricordiamo? Dai, sì, facciamo. Sì, perché pensavo... No, ricordiamo. Ecco, a proposito di ricerca, le stelle di Natale, mi raccomando, è questo tradizionale appuntamento di solidarietà promosso dall'AIL e posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Ringraziamo i volontari, che sono a migliaia, una piantina natalizia, 12 euro almeno, ma insomma portiamoci a casa questo aiuto per la ricerca. La ricerca che abbiamo visto può cambiare la vita di tante persone, quindi grazie all'impegno dell'AIL. Allora, no, cara mia, questo non lo compriamo, perché ci vogliono molti soldini, mamma e papà non li hanno, lavorano tanto per guadagnarli. Risposta: ma non puoi andare al bancomat a prenderli? Sì. Ecco, allora, chissà quante volte è capitato a qualcuno dei nostri ascoltatori di intrattenere questa conversazione con i figli, magari con i più piccolini, forse i quindicenni a cui si riferiva prima il dottor Pastorino hanno una consapevolezza diversa, almeno su questo, che il bancomat non te li dà gratuitamente. Sì. Ma i bambini piccini pensano che sia una macchina magica. Tu vai lì, dai due numerini e ti rifornisce di quello che ti serve. Insomma, lo abbiamo detto tante volte, l'educazione finanziaria di tutti, materia prima a quanto pare molto scarsa in Italia, passa innanzitutto dai bambini, che dovremmo provare a far crescere con il giusto grado di competenze finanziarie, ma anche con molto buon senso sull'uso del denaro, in primo luogo questo. Fra l'altro, a proposito di figli, Nicoletta, tu lo sai, su questo tema sei più sensibile di me perché hai più esperienza diretta e sul campo. Quando si chiede agli italiani il motivo principale per cui risparmiano, danno quasi tutti in questo momento la stessa risposta: lo facciamo per i figli. E noi parliamo anche di questo nella nostra rubrica del giovedì. Investire informati. Mi ricordo che i primi di gennaio del 1956 sono arrivato a Milano. Ecco.